Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera apriamo un po' una cronaca, una storia, anzi, sulla storia economica italiana. E parliamo di banche, parliamo della sfida internazionale della Comite della Banca Commerciale Italiana. Ne parliamo con il professor Carlo Brambilla. Buonasera, professor Brambilla. Buonasera a voi. Carlo Brambilla insegna storia economica nell'Università dell'Insubria e ha scritto per il Mulino questo libro, La sfida internazionale della Comite, che ha anche dei contributi di Carlo Azeglio Ciampi, di Andrea Manzella e di Romano Prodi, contributi storici anche questi, che soprattutto guardano all'ultima parte della Comite. Ricordiamo, la Comite è stata una delle grandi banche italiane, una delle grandi banche di interesse nazionale possedute dall'IRI per lungo tempo, e che poi negli ultimi anni, per vicende che sono anche in parte raccontate in questo libro, si è fusa nel grande cambiamento che c'è stato nel sistema bancario con Banca Intesa, ed è praticamente scomparsa, ora fa parte del gruppo Intesa San Paolo. Però ecco, questo libro affronta appunto un capitolo di storia economica molto vasto, va dagli inizi, anzi dalla fine dell'Ottocento, quando è stata fondata la Banca Commerciale Italiana, fino all'ultimo periodo, quando con la privatizzazione e poi con il riassetto del sistema bancario questa banca ha trovato la sua nuova collocazione all'interno di un grande gruppo. Com'è nata la Comite, la Banca Commerciale Italiana, Carlo Brambilla? Dunque, nasce nel 1894 per iniziativa di alcuni banchieri di origine tedesca che già erano presenti in Italia e che, a seguito della grande crisi finanziaria che colpisce l'Italia, e anche quella a origine, come l'ultima, dalle speculazioni immobiliari, dicevo, questa crisi spazza via i vertici del sistema bancario italiano di allora, colpisce addirittura uno degli istituti di emissione, e quindi i banchieri dell'epoca si riorganizzano. Le due grandi banche private dell'epoca, i cosiddetti crediti immobiliari, falliscono, e c'è questo tentativo di riassetto che darà vita, da una parte, alla Banca Commerciale Italiana e dall'altra al Credito Italiano. Quindi le due banche alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, sono le due grandi banche di riferimento italiano, coinvolte poi in un'altra crisi, quella molto più grave degli anni 30. Coinvolte poi nella crisi degli anni 30, che appunto è una crisi di sistema e che mondiale. Le nostre banche sono particolarmente esposte verso l'industria e hanno tutta una serie di problemi di liquidità, che si trasformano abbastanza repentinamente dal 31-32 in problemi di solvibilità. Quindi di fatto lo Stato deve intervenire non tanto per salvare le banche, ma perché queste banche, finanziando le imprese, erano diventate padrone di qualcosa, come è stato calcolato, un 45-50% delle SPA italiane. E questo ha un altro risvolto, perché l'altro risvolto è che la circolazione monetaria era in pericolo, cioè il sistema dei pagamenti. Certo, e quindi negli anni 30 è nato l'IRI per salvare il sistema industriale, e con questo salvare anche il sistema bancario. L'Istituto della Ricostruzione Industriale, la grande opera da una parte del fascismo ma soprattutto poi di Beneduce, che ha creato questa struttura che in pratica ha salvato gli uni e gli altri e ha accompagnato poi le banche e lo stesso sistema industriale anche negli anni del primo dopoguerra, cioè del secondo dopoguerra, del dopoguerra dopo la seconda guerra mondiale. Sì, lì rinasce come un ente appunto di salvataggio, in realtà abbastanza rapidamente, e nasce per opera di tecnocrati. Beneduce era un tecnico, uno statistico, che aveva maturato una notevole esperienza in campo finanziario, e raccoglie intorno a sé alcuni giovani ingegneri e esperti di finanza, e lì salva, rimette ordine tra le ex partecipazioni delle banche universali, e nel 37 l'IRI diventa permanente, quindi parteciperà attivamente, sarà forse, tra l'altro uscita adesso una storia dell'IRI, è uno dei pivot della crescita del cosiddetto miracolo economico, no? Del boom del secondo dopoguerra. Certo, dopo negli anni 50, con anche con l'apertura dei mercati, con il cambiamento ovviamente di sistema politico in Italia, comunque l'IRI è rimasto ancora per decenni a guidare appunto una parte della crescita, con le grandi imprese possedute dall'IRI, la siderurgia. Fare un elenco forse occuperebbe tutta la trasmissione. Diciamo tutti i settori di base. Tutti tutti i settori di base e anche le banche, soprattutto con le banche di interesse nazionale, Banco di Roma, Credito Italiano e Banca Commerciale Italiano, che erano direttamente controllate dallo Stato. Ecco, questo non ha impedito, anzi, diciamo, ha in un certo senso lasciato spazio alla crescita di questi istituti, perché la Banca Commerciale Italiana è stata forse tra i tre istituti di interesse nazionale quella che è riuscita in quegli anni a crescere di più, soprattutto come dimensione internazionale. Dunque, quello della crescita delle banche è un argomento spinoso, come sa, perché appunto le grandi banche in realtà negli anni 50 e 60 subiscono un po' questa politica di attenzione da parte del regolatore, che teme il ripetersi dei disastri degli anni 30. E però appunto dall'altra parte la gestione IRI permette di avere delle grandi banche gestite managerialmente. Certo, e, tra l'altro, e quindi appunto no. Il fatto, soprattutto sull'estero, per alcune di loro, in primis la Commerciale, ma anche il credito italiano, si sviluppano molto sull'attività estera, sia in Europa sia proprio della Banca Commerciale Italiana in Sud America. Ecco, parlando proprio di capacità manageriali, non si può non ricordare una personalità come Raffaele Mattioli, che è stato un po' il dominus della Banca Commerciale negli anni 60-70. Sì, fino alla sua uscita nel 72, se non ricordo male, e già appunto dal periodo del salvataggio Mattioli di fatto è al timone della Commerciale e alleva tutta un gruppo di giovani che non erano solo dei tecnici, erano anche degli intellettuali. Lo stesso Ciampi ricorda nel libro come Mattioli fosse conosciuto più come intellettuale, come persona che non solo possedeva tanti libri ma li aveva anche letti. Sì, questa è una battuta di croce, sì. Ecco, quindi in questa prospettiva la Comit è cresciuta e però ha avuto, diciamo, un incidente di percorso che lei ricostruisce molto all'interno di questo libro, con il tentativo di acquisire una dimensione internazionale con l'acquisto di una banca americana, la famosa Irving. Questo è stato un capitolo importante nella storia della Comit. Sì, io direi che è stato il capitolo, diciamo, l'ultimo capitolo di quella che potremmo chiamare un'avventura, ma in realtà di una strategia precisa che secondo me appunto emerge dai documenti, e cioè il fatto che la Commerciale già negli anni 50, ma soprattutto dalla fine degli anni 60, spinge molto sull'internazionalizzazione proprio perché si rende conto che i tempi stanno cambiando, il sistema monetario internazionale scricchiola, i mercati si sono molto aperti rispetto a 20 anni, 30 anni prima, e quindi è necessario raggiungere dimensioni di scala tali da essere in grado di lavorare. Ecco, ma in questo senso il fatto di essere una banca pubblica ha presentato un limite sotto due fronti: da una parte perché l'IRI non aveva le risorse necessarie per ricapitalizzare l'istituto, essendo molto impegnato sugli altri fronti strettamente industriali, e dall'altra perché, e lo scrive Romano Prodi nella sua introduzione, il sistema politico non ha appoggiato, non si sa forse, e lei non lo dice, per quali ragioni, non ha appoggiato questa avventura internazionale. Sì, l'impressione forte che si ricava da questa vicenda è che appunto il sistema politico non abbia dato appoggio né politico né diplomatico a questa iniziativa importantissima, che era l'idea di conquistare una banca di medio-grande dimensione negli Stati Uniti e peraltro internazionale anch'essa, che avrebbe dato alla Comit una capacità di operare in dollari, che allora era importante per come era la lira, come stava la lira. Certo. E insomma la cosa che emerge è il silenzio, cioè è la mancanza, no? Non c'è stata un'opposizione esplicita, no. Però di fatto per un'operazione di questo tipo un sostegno politico sarebbe stato indispensabile. Non essendoci un sostegno politico, c'è stato un silenzio di senso. In pratica la politica ha lasciato che la Comit fallisse questo obiettivo e quindi si indebolisse poi progressivamente. Sì, io credo di sì, io credo che non so per quali ragioni, magari molto semplicemente perché si era attenti ad altri problemi interni. ma si è perso di vista appunto un contesto che andava mutando e che imponeva, no, certe scelte. È significativo come conclude appunto Romano Prodi la sua introduzione, viene confermata l'affermazione compiuta all'inizio di queste riflessioni, che forse la Comit era troppo avanti rispetto all'Italia, ma che alla fine i due destini erano inestricabilmente legati tra loro, anche nel loro declino. Quindi un'immagine di un'Italia appunto che non riesce in fondo a cogliere le occasioni. La Comit, per concludere questa nostra presentazione del libro, è stata una grande banca. In questo libro ci sono i particolari di questa grande banca. Il paese non ha saputo essere un grande paese a sostegno di una grande banca. Forse no. Forse no. Però la realtà è in fondo quella. Lei dedica poche righe poi in conclusione del suo libro alle ultime vicende della Comit, ci auguriamo che magari possa svilupparle in un altro libro, un po' più di cronaca degli ultimi anni in cui il sistema bancario ha avuto un'evoluzione molto rapida, però indubbiamente non dimenticare le basi, le radici di fondo su cui è nato il sistema bancario è certamente importante, e questo libro aiuta a farla. Un'ultima cosa, ha avuto qualche sorpresa in modo particolare rileggendo la storia di questo secolo in fondo della Comit? In fondo cambiano gli uomini, cambiano i tempi, cambiano i contesti, ma l'impressione è che la Comit avesse fisso il timone in quella direzione da sempre. Quindi riconfermiamo, una grande banca e forse il paese non ha saputo sostenerla. Abbiamo parlato con Carlo Brambilla, professore presso l'Università dell'Insubria di Storia Economica, del suo libro La sfida internazionale della Comit, è edito dal Mulino, sono 312 pagine e costa 30 euro, La sfida internazionale della Comit. Grazie professor Brambilla di essere stato con noi. Grazie a quanti ci hanno seguito, grazie a Valeria Bernardi in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.